Buonasera cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto da Annalisa qui in studio a Bruxelles e questa sera in regia Michele. Buonasera Michele. Buonasera. E grazie per il supporto tecnico questa sera. In studio questa sera con noi Maurizio Molinari, giornalista e curatore della rubrica Onde Corte in onda su Radio Alma. Buonasera Maurizio. Ciao Annalisa. E cari radioascoltatori, questa sera iniziamo la trasmissione con la striscia sportiva, facendo il punto sulla situazione del campionato di calcio italiano e anche sulle coppe, e lo faremo appunto con Maurizio Molinari e con Michele. Dunque, partendo dal campionato, Maurizio, prima sconfitta della Juve dopo 49 partite, secondo te quale sarà il contraccolpo per il futuro della stagione bianconera? La Juve stava subendo un'involuzione di gioco già da qualche partita, che non giocava più come la Juve dell'anno scorso. Si è parlato di diversi giocatori che non rendevano a pieno, in particolare è finito sulla graticola Lichtsteiner, ma non solo lui, è proprio la Juve come squadra che non sta più giocando come giocava la scorsa stagione. È arrivata questa sconfitta, molti dicono prima o poi doveva arrivare, molti dicono finalmente la Juve si è tolto un peso. È certo che è arrivata proprio con l'Inter, un 3-1 in casa, una sconfitta molto brutta. La Juve adesso, ieri ha giocato appunto nella Champions League, ne parleremo magari dopo, ha vinto, quindi sembra aver assorbito già il contraccolpo. Sabato avrà un'altra partita relativamente facile, però comunque insidiosa, col Pescara. Poi affronterà a breve anche partite difficili con Milan e Lazio, e lì probabilmente si vedrà un po' se ha subito il contraccolpo della sconfitta e se potrà dominare questa stagione e vincere come ha vinto nella stagione scorsa. Maurizio, un commento su questa Inter. L'Inter, la vera anti-Juve, fino a che punto le due squadre si equivalgono? L'Inter, io oltretutto, Annalisa, ero allo stadio sabato sera. L'Inter rispetto alla Juve ha, secondo me, un po' la spensieratezza, come si ama dire, come ama dire il suo allenatore Stramaccioni, e ha degli attaccanti veri fuori classe, cosiddetti top player, come adesso è una parola molto in voga, che la Juve non ha. La Juve ha un gioco più collaudato, sicuramente è più abituata a partite importanti, è più abituata a vincere, visto che ha vinto l'anno scorso. Il dubbio è: reggerà l'Inter questi ritmi e la Juve riprenderà il ritmo delle 49 partite senza imbattibilità? Se la risposta alla prima domanda è sì e la risposta alla seconda domanda è no, allora sì, l'Inter è l'anti-Juve. Maurizio, una parola anche sul Napoli terzo in classifica. Crisi del Napoli, i problemi del suo allenatore, come vedi la situazione? Il Napoli è una squadra che secondo me ha fatto quello che poteva fare, ha una panchina sicuramente meno lunga di quella di Juve e anche dell'Inter, ha un allenatore che ha una formazione di titolari che sono sempre quelli, infatti nelle coppe europee quando ha cambiato ha sempre, diciamo, ha spesso rimediato delle brutte figure. Mazzarri adesso sembra aver avuto dei problemi addirittura di cuore, per cui non è stato bene, sembra soffrire molto lo stress. Il Napoli non è probabilmente, poi non so, magari anche Michele ci potrà dire, ma non è né la squadra l'anti-Juve come si voleva far passare, quindi non è probabilmente lo stesso della Juve, ma non è neanche il Napoli delle ultime apparizioni in cui ha perso miseramente, diciamo. Parliamo invece di Milan, un Milan che appare in ripresa dopo una partenza disastrosa, anche se ci sono voci che l'allenatore Allegri possa lasciare, si parla di Guardiola al Milan. Maurizio, un tuo commento su queste voci? Il Milan è partito veramente male, è partito facendo 11 punti nelle prime 7-8 partite, non succedeva da decenni che il Milan andasse così male, se non ricordo male addirittura da prima della seconda guerra mondiale, quindi è partito veramente un disastro. Le correnti di pensiero sono due: c'è chi pensa che la responsabilità sia di Allegri e c'è chi pensa che invece Allegri fa quello che può, visto che comunque in estate il Milan ha venduto i suoi pezzi da 90, penso a Ibrahimovic, penso a Cassano, penso a Thiago Silva, molti giocatori sono andati via, come Nesta, Gattuso, Inzaghi, quindi in tutto ha venduto una decina di giocatori, ha rinunciato a una decina di giocatori. Certo, non è facile ricominciare da dove aveva finito, quindi da un secondo posto. Adesso, le ultime prestazioni in campionato sono state incoraggianti, l'ultima in particolare 5-1 col Chievo. In Coppa sta andando un po' a fasi alterne, ha pareggiato col Malaga, ancora in corsa per la Champions League. Quello che succederà ad Allegri è difficile dirlo in questo momento, certo è sempre in discussione. Guardiola, se Guardiola verrà, sicuramente sarà una questione della prossima stagione, non da quest'anno. Se Allegri dovesse saltare, probabilmente a rimpiazzarlo sarà l'allenatore della primavera Tassotti. Dipenderà molto dalle prossime partite in campionato, in cui il Milan avrà un tour de force con Napoli, con Fiorentina, Juventus e Napoli, e dipenderà se riuscirà a passare il girone di Champions. Un'ultima domanda sul campionato prima di passare alle coppe. Derby Lazio-Roma questa domenica, come ci arrivano le due squadre secondo te? Le due squadre ci arrivano diciamo, almeno per quel che riguarda il campionato, perché la Lazio sta giocando adesso in Europa League con un spirito completamente diverso. La Roma è reduce dalla vittoria del Palermo dopo un inizio di campionato comunque deludente. La squadra di Zeman era una delle squadre che si pensava potessero essere rivelazione del campionato, e in realtà ha avuto un inizio di campionato deludentissimo. Alterna come molto spesso le squadre di Zeman, partite in cui prende tanti gol e perde, o addirittura perde in rimonta, come ha fatto con l'Udinese o con il Parma, a partite in cui poi segna molto, come è successo col Palermo, dove la Roma ha vinto 4-1 la Lazio, che era partita con un precampionato disastroso, perdendo praticamente tutte le amichevoli. Ha fatto un inizio di campionato molto buono, al di sopra di ogni aspettativa, con un nuovo allenatore, Petkovic, che fra parentesi ricorda, per quando parla, Vujadin Boskov, che era lo storico allenatore della Della Sampdoria. Sampdoria, lo ricordo. Esatto. Ed è un po'. Sì, parla molte lingue anche come Boskov. Insomma, secondo me un po' lo ricorda, anche se poi dovrà dimostrare di essere, diciamo, alla pari di Boskov, che in Italia ha vinto comunque uno scudetto, ha fatto una finale di Coppa Campioni. Però la Lazio, ecco, ha avuto un brutto stop, un 4-0 col Catania domenica scorsa, quindi sicuramente arrivano con due, diciamo, in due momenti diversi, la Roma e la Lazio. Sarà una partita molto interessante. Il derby è sempre imprevedibile. Poi il derby di Roma con Zeman, che è un ex, ricordiamo che Zeman ha anche allenato la Lazio, quindi insomma ci sono mille motivi per seguire questo derby, ecco. Passando invece alle coppe, la Juve ha vinto ieri 4-0 dopo 9 pareggi consecutivi. Quali sono secondo te ora le speranze di qualificazione al prossimo turno della Champions League? La Juve adesso per passare il turno deve battere il Chelsea il 20 novembre a Torino e deve sperare almeno in un pareggio in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk. Sono due partite difficilissime. La Juve, diciamo, si è complicata molto la vita andando a pareggiare in Danimarca contro il Nordsjælland, che è la stessa squadra che poi ieri ha battuto 4-0. Se avesse vinto in Danimarca sarebbe stato un cammino molto più semplice. Oltretutto il Chelsea ieri pareggiava con lo Shakhtar al 90esimo, 2-2. E avrebbe un pareggio avrebbe fatto comodo alla Juve, perché avrebbe reso la situazione più semplice nel suo girone, la qualificazione più semplice. Invece il Chelsea è andato a vincere al 94esimo. Quindi adesso, diciamo, la situazione del girone della Juve è molto difficile. È tutto nelle mani della Juve per il momento, nel senso che se la Juve vince con il Chelsea e pareggia con lo Shakhtar, o viceversa, la Juve si qualifica. Ha bisogno di una vittoria e di un pareggio. Ovviamente, questo dando per scontato che sia Chelsea che Shakhtar vincano contro i danesi, che sono un po' la Cenerentola del girone. Maurizio, ne avevi già accennato prima in precedenza quando abbiamo parlato della situazione del campionato italiano, il Milan che ha pareggiato con il Malaga e che fra 2 settimane verrà a giocare qui in Belgio contro l'Anderlecht. Qual è la situazione nel suo girone? Ecco, se possibile il Milan si trova in una situazione ancora più complicata, perché nel suo girone il Malaga è già qualificato e le altre tre squadre, quindi Anderlecht, Zenit, San Pietroburgo e Milan, sono in corsa per il secondo posto utile per gli ottavi di finale di Champions. Il Milan deve affrontare l'Anderlecht in trasferta, quindi qua a Bruxelles. E poi dovrà affrontare lo Zenit San Pietroburgo in casa, che ha già battuto in trasferta con un rocambolesco 3-2. È una situazione molto complicata anche per il Milan, e soprattutto il Milan è veramente imprevedibile come squadra, quindi si fa veramente fatica. Sicuramente non è facile. Se Allegri vuole sperare di rimanere sulla panchina del Milan, deve cercare di ottenere la qualificazione, anche perché diciamo che lo Zenit e l'Anderlecht sono due squadre di media caratura. Diciamo, l'Anderlecht è una buona squadra, però insomma dovrebbero essere squadre alla portata del Milan. Maurizio, puoi fare un breve riassunto per i nostri ascoltatori per quanto riguarda la situazione delle altre squadre di Europa League, quindi Inter, Lazio, Napoli e Udinese? Sì, l'Inter praticamente, se vince stasera, gioca con il Partizan, è qualificata. Comunque l'Inter insomma è nella posizione migliore di... diciamo in una buona posizione di classifica nel suo gruppo. Ricordiamo che le squadre in Europa League stanno giocando in questo momento, quindi è difficile, diciamo la situazione è in evoluzione. E Lazio e Udinese, anche loro hanno buone, diciamo, hanno buone speranze di qualificazione. L'Udinese, ricordiamo, ha battuto addirittura il Liverpool fuori casa, quindi stasera gioca con gli svizzeri dello Young Boys, però mi sembra che l'Udinese abbia perduto. Grazie Michele. La Lazio che gioca col Panathinaikos, anche la Lazio diciamo ha buone possibilità di qualificazione. Quello che ha il cammino un po' più difficile è il Napoli, che si è complicato la vita con due sconfitte, che stasera affronta una squadra ucraina. Soprattutto se Mazzarri continuerà col suo turnover, diciamo che sì, il Napoli avrà una vita non facile. Non si sa se continuerà il suo cammino in Europa League. Credo che Mazzarri ti abbia ascoltato, perché ha giocato Cavani e ha segnato 4 gol. Ah, perfetto. Bene, chiudiamo questa parentesi calcistica, ma ne apriamo un'altra parentesi sportiva dedicata al mondiale di Formula 1, un mondiale che sta volgendo al termine, con, come sapete, il duello tra Alonso e Vettel. Ecco, vorrei chiedere sia a Michele che a Maurizio che cosa ne pensano e qual è il loro, diciamo, pronostico sul risultato finale. Maurizio. Ma il mondiale lo può perdere solo Vettel. Ha 10 punti di vantaggio su Alonso, ha 2 gran premi dalla fine, quindi la Red Bull sembra sicuramente come macchina diciamo più veloce della Ferrari, sia in qualifica sia in gara. Ricordiamo che Vettel era stato retrocesso nell'ultimo gran premio per una questione di regolarità del carburante di benzina, quindi diciamo che il mondiale lo può perdere solo Vettel. È certo che la Red Bull ha dimostrato a volte di avere problemi di affidabilità della vettura, quindi i ferraristi possono sperare sia dei miglioramenti last minute della macchina che in qualche, diciamo, defiance della vettura di Vettel. Maurizio, per aiutarci a capire meglio, quindi a Vettel basta vincere un altro mondiale, uno su due? Sì, a Vettel basterebbero tante cose. Basterebbe per esempio che Alonso non gli arrivasse davanti in due circostanze. Cioè sono molte le combinazioni possibili. Però a Vettel sì, se Vettel vincesse un altro gran premio, a meno che poi non si ritirasse in quello dopo, sarebbe molto difficile. Anche se Alonso arrivasse secondo in uno dei due gran premi, sarebbe molto difficile poi per Alonso recuperare. Comunque diciamo, Alonso ha già vinto un mondiale in rimonta, ci possiamo sempre sperare, non è facile. Maurizio, noi ti ringraziamo ancora una volta per questo tuo contributo alla striscia sportiva, grazie, e ovviamente grazie. Buon lavoro con Onde Corte. Grazie a voi. E facciamo ora una pausa musicale. Allora. Bene. cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Continuiamo dunque la trasmissione di questa sera. Questa sera ospite in studio padre Paolo Cugini. Buonasera padre Paolo, benvenuto. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Padre Paolo della diocesi di Reggio Emilia vive da 13 anni nello stato di Bahia in Brasile, dove ha creato un centro per la preparazione all'università dei giovani in una terra segnata dalla scarsità di risorse e di opportunità. Ha inoltre dato vita alla campagna "Il voto non ha prezzo, ha conseguenze", per aiutare i membri della comunità locale a riscoprire la vocazione ad essere cittadini attivi e consapevoli. Di passaggio a Bruxelles in questi giorni, padre Paolo ci racconta questa sera la sua esperienza, quindi qui a Giro di Boa. In studio, oltre a padre Paolo, ci sono Michele Merloni, il nostro regista, e Stefania Nardelli, che quest'anno hanno avuto l'opportunità di conoscere padre Paolo e il suo lavoro durante un viaggio di turismo solidale. Come i nostri radioascoltori si ricorderanno, Michele e Stefania sono già stati nostri ospiti al ritorno del loro viaggio per parlarci appunto della loro esperienza. Quindi bentornata a Stefania. Buonasera, buonasera nuovamente a Michele, il nostro regista. Quindi buonasera padre Paolo, ancora benvenuto. E innanzitutto, che cosa ti ha portato 13 anni fa in Brasile e perché proprio nello stato di Bahia? Io sono un prete diocesano della diocesi di Reggio Emilia e da 50 anni la nostra diocesi ha aperto una missione in Bahia, nell'interno della Bahia, in una diocesi chiamata Rui Barbosa. E come prete diocesano io ho dato la disponibilità a un'esperienza di tipo missionario. E nel 1998 un sacerdote di Reggio Emilia, diocesano, che stava lavorando in Bahia da 10 anni, aveva chiesto al vescovo di poter ritornare e quindi aveva bisogno di un sostituto. E siccome in quel periodo io ero uno dei sacerdoti diocesani a essere disponibile alle missioni, il vescovo Paolo mi ha chiamato e mi ha chiesto se ero disponibile di andare, che chiaramente ho detto di sì, visto che era senza dubbio un'esperienza positiva. Questo è stato in sintesi il motivo. E una domanda, la diocesi hai detto di Rui Barbosa, lo stato di dove si trova, esattamente nello stato di Bahia? Circa 400-500 chilometri all'interno. Noi viviamo in parrocchie all'interno della Bahia, quindi con tutte le dinamiche e le problematiche sociali tipiche di città e all'interno della Bahia, e problematiche cioè legate ai grandi latifondisti che hanno creato anche dinamiche di conflitti sociali e politici, e quindi lavoriamo in questi contesti. Padre Paolo, leggevo sul tuo blog che tu hai scritto che l'incontro con il popolo baiano è stato per te un vero e proprio shock. Che cosa ti ha colpito al tuo arrivo appunto dell'incontro con questa gente? Che cosa ti ha colpito di questa terra e di questo popolo? Appena arrivato in Salvador mi ha colpito soprattutto la quantità di favelas, la quantità di persone povere. E l'altro aspetto che mi aveva proprio scioccato era la disuguaglianza, cioè da un lato si incontravano tantissime favelas, tantissimi poveri, e dall'altra parte dei quartieri belli, estremamente belli, quindi questo mi aveva fatto estremamente riflettere. Poi dopo, andando all'interno della Bahia, dove poi mi sono fermato anche perché noi lavoriamo lì, quello che fa riflettere anche la situazione delle campagne, quindi la grande siccità, pochissimi mezzi a disposizione, l'arretratezza in una terra molto grande come il Brasile, che offre anche tante possibilità, solo che in quella regione, che è appunto il nord-est del Brasile, tanti anni di politiche di corruzione ha provocato questa lentezza sociale e politica che non permette di svilupparsi, e lì chiaramente la riflessione ha portato poi a sviluppare alcuni progetti importanti, insomma, in questi anni. Prima di parlare più nel dettaglio di questi progetti, vorrei chiedere a Stefania e Michele come hanno conosciuto padre Paolo durante il loro viaggio, quindi tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno. È stato un incontro fortuito e fortunato. Attraverso il viaggio, ti ricordi l'altra volta avevamo parlato di questa idea del viaggio solidale? da cosa nasce cosa, ripetiamo da giorni con padre Paolo, perché quando siamo andati a Cuzco al kite a incontrare questa donna fantastica, Vittoria, che sostiene le bambine schiave, abbiamo lì conosciuto Monia, che è la cugina di padre Paolo, e raccontandole un po' del progetto di viaggio, includendo quindi il Brasile, le ha detto: ma io ho un cugino a Salvador. E qua io sono un po' così, cioè, nel senso, mi dicono un cugino, vuoi scrivere? Io dico di sì, e poi effettivamente lo faccio. Quindi padre Paolo si è visto, insomma, suonare il telefono e: ciao, io sono Stefania, sono qua con Michele, veniamo da quelle parti, ti veniamo a trovare. Lui ha fatto anche un po' le sue ricerche su internet per vedere se non eravamo due matti, vero padre Paolo? E poi ha detto di sì. Abbiamo passato 3 giorni che per me sono stati emozionanti, sono stati bellissimi, perché abbiamo scoperto questa sua realtà, le sue attività nell'ambito dell'educazione, nell'ambito politico. Sono stati così entusiasmanti che quando lui ha detto che sarebbe venuto a trovarci qui a Bruxelles, la voglia più grande è stata quella di condividere con gli amici e questa esperienza, e padre Paolo che la rappresenta. E non l'ho detto in apertura di trasmissione, ma ovviamente un grazie sia a Michele che a Stefania per aver avuto l'idea, appunto, di condividere questa esperienza e la presenza di padre Paolo con noi a Giro di Boa. Michele. Giusto una nota di colore: come guida padre Paolo? Ah, come guida padre Paolo? E guida come lui, cioè a 1000 all'ora. A Reggio Emilia lo chiamavano Don Schumacher, per darvi l'idea. Adesso vado più piano. No, non credo. Ma vai così, padre Paolo, che ci piaci. Padre Paolo, quindi ti vorrei chiedere più dettagli sulla tua iniziativa Il voto non a prezzo ha conseguenze. Perché la corruzione politica è un fenomeno così diffuso e radicato, particolarmente nello stato della Bahia? È legato anche al latifondio, cioè ci sono dei grandi latifondisti, e la terra della Bahia se la sono spartiti i portoghesi quando sono arrivati, quindi sono legato ad alcune famiglie, e quindi terra lì significa potere, potere per poter mantenere significa entrare in politica. E quindi questo progetto, Il voto non ha prezzo ma delle conseguenze, anche il progetto Chi non deve non teme, sono tutti progetti statali della Bahia, quindi noi l'abbiamo appoggiato, quindi non è che l'ho inventato io. Ah, ok, quindi sono progetti del governo locale. Esatto, dello chi non deve non teme, è un progetto dello Stato che prevede la possibilità di verificare i conti pubblici per 2 mesi. Quindi in mesi di aprile e di maggio. Questo è una possibilità, solo che molto spesso non lo fa nessuno. Allora, quando noi abbiamo la nostra diocesi di Rui Barbosa ha scoperto questo progetto, lo ha divulgato. Allora, alcune parrocchie, solitamente dove io vado, lo attuiamo. Quindi cosa facciamo? Chiamiamo degli esperti in economia che aiutano la gente a capire com'è che si può verificare un conto pubblico, quindi i conti della salute, i conti dell'educazione. Noi e tutti i municipi sono obbligati per legge a mettere in questi 2 mesi all'anno tutti i conti in un posto pubblico. Cioè, quindi una sala pubblica, tutte le spese pubbliche di un municipio, tutte, diciamo, di una comunità locale, tutte, chiaro, divise per settori, quindi quelli della salute, quelli dell'infrastruttura, quelli dell'educazione. E solo che, come dicevo, solitamente i municipi non lo fanno perché non c'è nessuno che li chiede, invece noi lo chiediamo. Quindi allora, voi incoraggiate i cittadini, facciamo dei corsi, facciamo prima il mese precedente, facciamo una settimana di corso aperto a tutti, lo divulghiamo, andiamo alla radio, diciamo: guardate, c'è questa possibilità che lo Stato permette, quindi chi vuole conoscere come il municipio ha speso i soldi nell'anno precedente, venite che vi insegniamo a fiscalizzare i conti. E allora, solo che solitamente che cosa succede? Le persone legate al sindaco non vengono, e quelli della posizione solitamente non sono molto abituati a fare questo tipo di lavoro, quindi sono soprattutto i giovani. E infatti la mia prossima domanda sarebbe stata: chi partecipa a questi corsi? Perché la pressione politica è molto forte, gli dicono: se tu partecipi di questo progetto sarà difficile poi mantenere il lavoro, cominciano a pressionare, quindi chi partecipa è chi non ha niente da perdere, quindi gente che ha un commercio locale, oppure chiaramente soprattutto i giovani. Allora facciamo questo lavoro formativo e poi dopo mandiamo una lettera al municipio dicendo: guarda che il giorno, il tal giorno noi saremo lì per fiscalizzare i conti, e se il municipio si rifiuta immediatamente noi attiviamo gli organi pubblici per mandare una lettera dicendo che sono obbligati per legge. Quindi nella città dove mi trovo, per esempio Pintadas, il sindaco, che conosceva molto bene la legge, ci ha messo a disposizione il suo gabinetto, il suo studio. È stato interessante, e solo che la pressione è stata così forte che nel corso hanno partecipato una trentina di persone, solo che chi ha fiscalizzato i conti pubblici sono stato solamente io, un professore, perché la pressione è stata fortissima, nessuno ha voluto compromettersi. Noi abbiamo trovato un sacco di cose, quindi situazioni molto ambigue. Io nel blog che ho in portoghese, blog di Padre Paolo, avevo scritto alcune riflessioni, cioè mi ero interrogandomi come mai la gente non è venuta a fiscalizzare, che cos'è e perché ha così paura di sapere quello che il municipio ha speso utilizzando i soldi pubblici. Cioè una persona dovrebbe sentire il desiderio di sapere dov'è che sono andati a finire i soldi pubblici, anche perché poi si fanno delle scoperte impressionanti. Mm-hmm. Abbiamo scoperto per esempio che il municipio aveva speso tantissimi soldi nella benzina, e il gestore che aveva vinto il concorso l'aveva vinto per un centesimo, quindi senza dubbio era stato motivo di, c'era stato qualcosa di corrotto lì in mezzo. Abbiamo scoperto anche che per esempio all'ospedale spendevano un sacco di soldi per lo zucchero. Come mai? Era chiaramente un modo per desviare i soldi, desviare si dice, desviare, sì. E altre cose di questo genere. Quindi avevo nel blog, avevo soprattutto provocato una riflessione, aiutando la gente a interrogarsi, anche a svegliarsi un poco, per interessarsi anche al proprio municipio. Solo che invece di provocare una riflessione ha provocato una reazione fortissima, violenta, aggressiva, offensiva. Hanno cominciato a diffamarmi, a entrare nel personale, e purtroppo niente di nuovo. Esatto. Stefania e Michele, voi avete quindi visto, partecipato? No, di questa campagna specifica loro non hanno visto. Non era... No, però perché era nel mese di, era nel mese di marzo, di maggio e giugno che avviene questa campagna specifica. Marzo e giugno? No, maggio e giugno. Maggio e giugno, quindi tutti gli anni solamente in questi due mesi. I municipi sono obbligati a mettere a disposizione i conti. E poi leggevo sul tuo blog, quindi, che un altro progetto a cui hai dato vita è quello sui, appunto, corsi di formazione, sì, per i giovani, questo corso che prepara i giovani ad affrontare l'esame di ammissione all'università. Anche qui, quindi, come è nato questo progetto, da quale esigenza è nato e chi è coinvolto, chi è che fa questi corsi? È nato una sera in dicembre mentre mi trovavo in casa lì con alcuni amici, e dove si notava che nessun giovane di quella città dove ero, che era Tapiera Mutà, era riuscito ad entrare all'università. Questo perché i professori dell'interno sono poco preparati, nessuno è laureato, quindi un po' improvvisano, e l'esame di accesso all'università è molto difficile. E riflettevamo un dato interessante, cioè un progetto che il presidente, l'antico presidente del Brasile Lula, è molto sensibile con le classi povere, aveva elaborato un progetto chiamato Pro Uni, cioè Pro Università, che pagava tutto l'itinerario formativo universitario ai giovani poveri che sarebbero riusciti a passare questo esame. Quindi noi ci siamo chiesti: ma allora sarebbe importante organizzare un corso che preparasse i giovani per poter entrare all'università, i giovani delle classi povere. Come fare? Bisognava senza dubbio cercare professori nelle altre città. Questo voleva dire soldi per pagare i taxi, e per poter venire a Tapiera Mutà, che in quell'epoca c'erano delle strade molto sgangherate, di notte, che è anche pericoloso, era necessario offrire un buon salario. Quindi noi abbiamo offerto 3 volte quello che loro ricevevano normalmente. Quindi siamo riusciti a organizzare e mettere in piedi questo progetto, anche perché in quel periodo c'era un giovane di Reggio Emilia, e un industriale, un mio amico, che ascoltando i conti che facevamo, che era una cifra grande, era 18.000 euro, E lui ha detto lui, che un terzo lui entrava con, questo, con questi soldi. Allora da lì ci siamo animati, abbiamo cominciato a mandare delle lettere eccetera, e le persone hanno risposto, quindi l'abbiamo messo in piedi e ha avuto frutti, perché praticamente nei primi 3 anni 36 giovani sono riusciti ad entrare all'università, 30 giovani di quella classe povera. E quindi è stato un successo grandissimo, che però ha provocato anche l'invidia dei politici locali, perché solitamente in quelle realtà gli unici che muovono qualcosa, che fanno qualcosa, e non tanto, qualcosina fanno, sono loro. E quindi l'invidia, perché questo progetto aveva coinvolto tutti quei giovani. Noi eravamo riusciti a trattenere l'uscita i giovani solitamente quando terminano i superiori, che sono 3 anni, vanno subito via, o in cerca di lavoro, in cerca di possibilità, in cerca anche di questi corsi in preparazione all'università che vengono fatti nelle grandi città, solo che sono molto costosi. Quindi dopo 3 anni di superiore, quindi le superiori durano 3 anni, tre anni un giovane può fare questo esame per accedere. Esatto, all'università. E quindi noi con questo corso siamo riusciti a trattenere i giovani, e quindi le famiglie sono state molto grate, perché non hanno dovuto investire anche negli alloggi in altre città. E poi soprattutto perché in 36 sono riusciti a vincere questo concorso e a passare all'università. Poi negli anni altri sono riusciti, anche questo progetto di corso in preparazione all'università si è esteso ad altre città. E soprattutto grazie all'esperienza, adesso non dipende più dai soldi che vengono di fuori, ma da entità che abbiamo coinvolto, quindi da una parte il municipio, il sindacato, alcune banche, alcune organizzazioni che si incontrano nella regione, e adesso questo corso è presente in 4 città, in 4 municipi. E dicevi prima, era stato con l'ex presidente Lula, che giovani di classi non abbienti potevano studiare quindi in maniera gratuita. Esatto. Una volta passato questo esame, questa possibilità è rimasta con la nuova presidente. La presidente Dilma chiaramente ha continuato questo progetto, e ci sono alcune problematiche un poco negative anche di questo progetto, perché e ha finanziato soprattutto delle università particolari, delle università private, e quindi la grande polemica che c'è attualmente in Brasile è questa, cioè questo progetto avrebbe dovuto investire di più nel funzionamento delle università pubbliche, e tanto che la polemica è stata così grande che i professori delle università della Bahia sono entrati in sciopero, hanno scioperato per 3 mesi. Il governatore della Bahia, che è dello stesso partito di Lula e di Dilma, non ha saputo dialogare con questi professori, e quindi pensate, uno sciopero che doveva terminare in massimo una settimana è andato avanti per 3 mesi, anche perché i professori non ci hanno mollato, anzi hanno coinvolto i professori anche statali delle superiori e delle medie, quindi è stata una paralisi totale di tutte le scuole, provocando situazioni veramente allucinanti. Però il problema è serio, perché incentivando le scuole private ha incentivato anche delle università che non hanno valore, università a distanza, quindi ha svalorizzato molto il valore anche dell'università in questi anni in Brasile, che più di essere un luogo di formazione diventa un luogo per cercare un titolo, un titolo che serve poi per il mondo del lavoro, però un titolo che molto spesso è vuoto di contenuti, perché ad esempio ci sono alcune università a distanza dove basta la frequenza una sera alla settimana. Pensate che corso può essere. Hai il titolo in mano, però non hai la formazione. Padre Paolo, ci resta un minuto purtroppo. Io Bene. Ho un'ultima domanda. Ovviamente si parla tanto del Brasile, della sua crescita economica, dei BRICS, di cui fa parte il Brasile, l'economia più grande dell'America Latina. Sono state scoperte di recente grandi riserve di petrolio al largo delle coste, quindi il Brasile potrebbe divenire uno dei maggiori esportatori di petrolio. Leggevo che nonostante le grandi diseguaglianze tra ricchi e poveri, la Banca Mondiale ha elogiato il paese per il progresso fatto nel ridurre le diseguaglianze sociali ed economiche, però in città come Rio e San Paolo un terzo della popolazione lì vive in favelas. Padre Paolo, dalla tua prospettiva nello stato della Bahia, nel nord-est, che cosa si vede di questa crescita, e come la gente con cui tu ti rapporti tutti i giorni vede? Qualcosa si vede, senza dubbio. Le strade sono state fatte, e alcuni progetti sociali sono mirati, però rimangono sempre progetti assistenzialisti. Cioè, anche i numeri sono cambiati, però è facile modificare dei numeri. Faccio un esempio: per poter elevare la percentuale delle persone alfabetizzate è stato proibito di bocciare.